Allora, per risolvere questo genere di casini, di solito uso Knoppix. Faccio partire Knoppix e da là guardo com'è la situazione, vedo che numeri hanno la partizione, guardo dentro per vedere questa è la Debian, questo è Windows, indubbiamente NTFS. Faccio un po' di ordine sulla carta e da dentro Knoppix lancio l'installazione di GRUB. Dopo aver messo ordine nel file di configurazione. Cioè, se sono state scombinate i numeri delle partizioni, devo intanto capire cosa è successo. Alla 2 corrisponde la Debian, alla 3 la Fedora, eccetera. Quando ho io in chiaro come stanno le cose, lo butto giù sul menu di configurazione di GRUB. A quel punto installo GRUB. Altra cosa che si può fare, sempre con la Knoppix, è installare il GRUB sul secondo disco. Cioè, faccio partire la live perché nel comando GRUB install, ecco, così l'abbiamo detto, bisogna, oltre a eventuali altri parametri, specificare dove va installato questo GRUB. Può essere nel master boot record del secondo disco, oppure all'inizio di una partizione per fare il chain loader. Torno al bottoncino avanzate di Ubuntu. Pigiando quello posso specificare che GRUB non me lo vada ad installare nel master boot record del primo disco, cosa che farebbe in automatico. Magari io voglio che me lo vada a installare all'inizio della partizione sua di Ubuntu per fare questi giochetti del chain loader. Lo installo nella prima manciata di byte della sua partizione e poi nel GRUB principale specifico queste due cose. Specifico, fai un chain loader a quella partizione là che ti dico, la 1 del disco, del primo disco. Due cose non guasterebbero a vedere. Sto benedetto file di configurazione e i comandi, l'installazione di GRUB da GRUB install. Direi che possiamo anche farlo. Il caso. Allora, se riusciamo a farlo da grafica, bene, se no non importa. Meglio se la grafica. Allora, si apre. Editare il file di configurazione di root si può solo farlo con i privilegi di amministratore. In questo caso glielo dico con sudo. Faccio partire il classico editor di GNOME. ovvio che qualsiasi editor va bene. Ecco, badate a dove si trova, boot group, e si chiama menu LST. Eccolo qua, ne abbiamo parlato forse fin troppo prima di vederlo. Allora, il cancelletto è un commento, quello che dicevo prima, default, che possiamo specificare un numero, oppure saved, cioè l'ultimo che è stato caricato, quello che è stato caricato l'ultima volta che è partito, il tempo in cui sta là ad aspettare prima di partire in automatico. Il resto lo lasciamo per dopo casomai e andiamo. Allora, accennavo ai due modi di far partire Linux da GRUB, cioè come si vede qua. Adesso ve lo evidenzio. Allora, titolo, possiamo scriverci quello che vogliamo qua dentro, cioè quello che ci piace. L'istanza title ci va, e poi qua mettiamo noi, lo possiamo personalizzare a piacere. Gli dobbiamo dire a che partizione ci riferiamo e un modo, questo sempre, quale partizione. In un caso specifichiamo il kernel, questo barra boot barra si riferisce alla partizione 7 nel linguaggio di GRUB, 8 all'interno di Linux, nella sua partizione dentro boot. Allora, o specificando per esteso quale kernel caricare, oppure titolo, partizione di avvio, chain loader, che significa che in questa partizione, nella prima manciata di byte che ci sono in questa partizione, si troverà un altro GRUB. Save default fa sì che lui memorizzi che è partito questo e serve al saved. Se noi non mettiamo save default, lui non lo salva. Io per esempio non metto save default in Windows, in tutti gli altri Linux sì, per capirci come funziona, no? Metto saved, si può mettere anche su una, cioè, due save default, se quelle due e su una, se per sbaglio non vogliamo che parta Windows, non si mette save default. Scusa, si è partita. Tu adesso sei sull'HD0, giusto? Sul disco. Questo è il GRUB installato sull'HD0. Sì. Quel punto lì tu lì sul master boot record. Sì, il disco 0. HD0. Hai un disco solo. Qua ce n'è uno solo. Tu gli stai dicendo qui di puntare alla partizione. Alla prima partizione. 1, giusto? Quindi sarebbe la 0.1, dove è installato un altro GRUB. Debian. Sì. No, sì. Ma c'è anche un altro GRUB. Sì. Sulla 1. Sulla 1. Il GRUB di Debian. Ok. Scusi. Perché non necessariamente chi gestisce GRUB deve stare nella prima partizione. È per questo che ti è venuto. Ti sembra strano? No. Perché chi comanda, diciamo, è questa. Ma non necessariamente deve stare sulla prima partizione. Perché ho fatto installare, quando ho installato questa, gli ho detto ok, valla a installare quello che fa di default, ok, valla a installare sul master boot record, e poi me lo sono personalizzato. A tutti gli altri ho detto invece no, andatevi a installare nel primo settore della vostra partizione, Sì. Nel caso che ci sia una partizione di Windows, nel caso che ci sia questo, sì, lì non c'è un GUB. No. Quello che GRUB fa è, allora, se ci sarà una parte, qui è commentata perché non c'è Windows, ci sarà un'istanza come questa non commentata, quello che GRUB fa è impossessarsi del master boot record e praticamente mettere il loader di Windows all'inizio della sua partizione di nuovo, lo stesso giochetto, solo che là fa sempre un chain loader, solo che là non troverà un altro GRUB ma il loader di Windows che gli permette di caricare, di caricarsi. Funziona. Bene. Io adesso andrei a dare un'occhiata a Gparted, se fin qui è chiaro.